Friuli nel mondo, 112esima trasmissione dedicata agli emigrati. Quattro voci ed un solo cuore. Queste villotte, come tutte le nostre villotte, cari amici in ascolto, ritmate sul consueto tema della nostalgia e dell'amore, vogliono essere la perenne testimonianza di una tradizione che non può e non deve morire, perché sono l'espressione pura della voce dei nostri ridenti borghi e delle nostre serene vallate, perché sono la semplice poesia del Friuli espressa in canto. Il quartetto di Corde Nons, con questa fiorita di villotte, vuole oggi richiamare il vostro animo alla serenità, alle sane, semplici e buone cose della terra friulana. Ascoltate questa rapsodia di villotte popolari elaborate da Cesare Augusto Seghizzi e che ha per titolo Gotis di Rosade. Cambiamote, palidute, ciolte su dal vasco. Di Arturo Zardini, su testo di Pietro Zorutti, eccovi La Gnotte d'Avril, ispirata ad un profondo senso di serenità e di pace. Flores de mil odores, y Questa O Ciampanis di Sabi de Sere, musicata da Luigi Garzoni, è una villotta che i friulani giovani e non più giovani cantano in Friuli e all'estero con tanta nostalgia. Ed ora un concerto festoso di note della bella villotta composta da Enrico Fruch e musicata da Luigi Garzoni, dal titolo In che sere. Living. Ed infine, ascoltate questo magnifico componimento di Cesare Augusto Seghizzi, dal titolo Il Gri. Un burri, un burri, un edia, lo deve la sirimbo, di salare. Pompa muse, la sua muse, prima me, posa tutta prego, supplegato, rasa, finché arriva in talor. Zirri ca, zirri la, con gran moglie, di mangiare, finché diate, un mio pane, di salate. Al si platte, fra gli spleis, di che spleis, as come se rose ha. Io trascuto mi doma, si ferme il tuo bocca, più sotto, tra mierda che brace. Io la fue, al di grodi, senti, un che cria, che mos, di same, di fame, lui sabe, si la fe. E vi è lui, tal garbo, sueis maraveis sonne fuerte tenerude la sobiere femenute si Borghini, palia, i pare di muri, ma non bene non è pese. Chi sti vori si impara di transazione, sti la fasi e portace a cianta. Gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, gri, Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari. Ha cantato il quartetto Stella Alpina di Cordenons, composto da Adriano Turrin, Donato Marson, Ettore Travanut e Sergio Mion.